Cari fratelli e sorelle, questa mattina vi invito a riflettere su Sant'Eusebio di Vercelli, il primo vescovo dell'Italia settentrionale di cui abbiamo notizie sicure. Nato in Sardegna all'inizio del IV secolo, ancora in tenera età si trasferì a Roma con la sua famiglia. Più tardi venne istituito lettore, entrò così a far parte del clero dell'urbe in un tempo in cui la Chiesa era gravemente provata dall'eresia ariana. La grande stima che crebbe attorno a Eusebio spiega la sua elezione nel 345 alla cattedra episcopale di Vercelli. Il nuovo vescovo iniziò subito un'intensa opera di evangelizzazione in un territorio ancora in gran parte pagano, specialmente nelle zone rurali. Ispirato da Sant'Atanasio, che aveva scritto un libro sulla vita del Sant'Antonio, fondatore del monachesimo, ispirato da questa lettura fondò a Vercelli una comunità sacerdotale simile a una comunità monastica. Questo cenobio diede al clero dell'Italia settentrionale una significativa impronta di santità apostolica e suscitò figure di vescovi importanti come Limenio e Onorato, successore di Eusebio a Vercelli, Gaudenzio a Novara, Esuperanzio a Tortona, Eustasio ad Aosta, Eulogio a Ivrea, Massimo a Torino, tutti venerati dalla Chiesa come santi. Solidamente formato nella fede nicena, nella fede del Dio trinitario, Eusebio difese con tutte le forze la piena divinità di Gesù Cristo, definito dal credo di Nicea della stessa sostanza del Padre. A tale scopo si alleò con i grandi padri del IV secolo, soprattutto con Sant'Atanasio, l'alfiere dell'ortodossia nicena, contro la politica filo-ariana dell'imperatore. Per l'imperatore la più semplice fede ariana appariva politicamente più utile come ideologia dell'impero, e per lui non contava la verità ma l'opportunità politica, voleva strumentalizzare la religione come legame dell'unità per l'impero. Ma questi grandi padri resistettero a questa dominazione della politica per la verità, e per questo motivo Sant'Eusebio, come tanti altri, per esempio Ilario, sul quale abbiamo parlato l'altra volta, Sant'Ilario fu condannato all'esilio, come ci hanno detto tanti altri vescovi di Oriente e di Occidente, lo stesso Atanasio, Ilario, Ossio di Cordova. A Scitopoli in Palestina, dove fu confinato fra il 355 e il 360, Eusebio scrisse una pagina stupenda della sua vita, e anche qui a Scitopoli in Palestina fondò un cenobio con un piccolo gruppo di discepoli, e da qui curò la corrispondenza con i suoi fedeli del Piemonte, come dimostra soprattutto la seconda delle tre lettere eusebiane riconosciute autentiche. Successivamente, dopo 360, fu isolato in Cappadocia e nella Tebaide, ove subì gravi maltrattamenti fisici. Nel 361 morì l'imperatore Costanzo II, seguì l'imperatore Giuliano, cosiddetto apostata, che non si interessava per il cristianesimo come religione dell'impero, ma voleva restituire il paganesimo, e perciò Giuliano mise fine all'esilio di questi vescovi e consentì così anche ad Eusebio di riprendere possesso della sua sede. Nel 662 fu invitato da Anastasio a partecipare al concilio di Alessandria, che decise di perdonare i vescovi ariani purché ritornassero allo stato laicale. Eusebio poté esercitare ancora per una decina di anni, fino alla morte, il ministero episcopale, realizzando con la sua città un rapporto esemplare che non mancò di ispirare il servizio pastorale di altri vescovi dell'Italia settentrionale, delle quali ci occuperemo nelle prossime catechesi, come Sant'Ambrogio di Milano e San Massimo di Torino. Il rapporto tra il vescovo di Vercelli e la sua città è illuminato soprattutto da due testimonianze epistolari. La prima si trova nella lettera già citata che Eusebio scrisse dall'esilio di Citopoli ai dilettissimi fratelli e ai presbiteri tanto desiderati, nonché ai santi popoli saldi nella fede di Vercelli, Novara, Ivrea e Tortona. Queste espressioni iniziali, che segnalano la commozione del buon pastore di fronte al suo gregge, trovano ampio riscontro alla fine della lettera, nei saluti calorosissimi del padre a tutti e a ciascuno dei suoi figli di Vercelli, con espressioni traboccanti di affetto e di amore. È da notare anzitutto il rapporto esplicito che lega il vescovo alle sancte plebes, non solo di Vercelli, la prima e per qualche anno ancora l'unica diocesi di Piemonte, ma anche di Novara, Ivrea, Tortona, cioè di quelle comunità cristiane che all'interno della stessa diocesi avevano raggiunto una certa consistenza e autonomia. Un altro elemento interessante fornito dal commiato con cui si conclude la lettera. Eusebio chiede ai suoi figli e alle sue figlie di salutare anche quelli che sono fuori della Chiesa e che si degnano di nutrire per noi sentimenti di amore. Etiam hos qui fuori sunt, et nos dignanto di licere. Questo è un segno evidente che il rapporto del vescovo con la sua città non era limitato ai cristiani, ma si estendeva anche ai non cristiani che ne riconoscevano in qualche modo l'autorità spirituale e amavano quest'uomo esemplare. La seconda testimonianza del singolare rapporto del vescovo con la sua città proviene dalla lettera che Sant'Ambrogio di Milano scrisse ai Vercellesi intorno al 394, cioè più di 20 anni dopo la morte di Eusebio. La chiesa di Vercelli stava in questo momento attraversando un momento difficile, era divisa e senza pastore. Con franchezza Ambrogio dichiara di esitare a riconoscere in quei vercellesi la discendenza dei santi padri che approvarono Eusebio non appena l'ebbero visto, senza averlo mai conosciuto prima di allora, dimenticando persino i propri concittadini. Nella stessa lettera il vescovo di Milano attesta nel modo più chiaro la sua stima nei confronti di Eusebio e scrive: un così grande uomo ben meritò di essere eletto da tutta la Chiesa. L'ammirazione di Ambrogio per Eusebio si fondava soprattutto sul fatto che il vescovo di Vercelli governava la diocesi con la testimonianza della sua vita. Con l'austerità del digiuno governava la sua Chiesa. Di fatto, Ambrogio era anche affascinato dall'ideale monastico della contemplazione di Dio che Eusebio aveva perseguito sulle orme del profeta Elia. per primo a Notanfrocio il vescovo di Vercelli raccolse il proprio clero in vita comunis e lo educò all'osservanza delle regole monastiche, pur vivendo in mezzo alla città. Il vescovo e il suo clero dovevano condividere i problemi dei concittadini e lo hanno fatto in modo credibile, proprio coltivando al tempo stesso una cittadinanza diversa, quella del cielo, e così hanno realmente costruito una vera cittadinanza, una vera solidarietà comune tra i cittadini di Vercelli. Così Eusebio, mentre faceva sua la causa della Santa Peps di Vercelli, viveva in mezzo alla città come un monaco, aprendo la città verso Dio. Questo tratto, quindi, nulla tolse al suo esemplare dinamismo pastorale. Sembra fra l'altro che egli abbia istituito a Vercelli le pievi per un servizio ecclesiale ordinato e stabile, e che abbia promosso i santuari mariani per la conversione delle popolazioni rurali pagane. Piuttosto, questo tratto monastico conferiva una dimensione peculiare al rapporto del vescovo con la sua città. Come gli apostoli, per i quali Gesù pregava nella sua ultima cena, il pastore e i fedeli della Chiesa sono nel mondo, ma non sono del mondo. Perciò il pastore, ricordava Eusebio, devono esortare i fedeli a non considerare le città del mondo come la loro dimora stabile, ma a cercare la città futura, la definitiva Gerusalemme del cielo. Questa riserva escatologica consente ai pastori e ai fedeli di salvare la scala giusta dei valori senza mai piegarsi alle mode del momento e alle pretese ingiuste dell'attuale potere politico. La scala autentica dei valori, sembra dire la vita intera di Eusebio, non viene dagli imperatori di ieri e di oggi, ma viene da Gesù Cristo, l'uomo perfetto, uguale al Padre nella divinità, eppure uomo come noi. Riferendosi a questa scala di valori, Eusebio non si stanca di raccomandare caldamente ai suoi fedeli di custodire con ogni cura la fede, di mantenere la concordia, di essere assidui nell'orazione. Cari amici, anch'io vi raccomando con tutto il cuore questi valori perenni. Mentre vi saluto e vi benedico con le parole stesse con cui il Santo Vescovo Eusebio concludeva la sua seconda lettera. Mi rivolgo a tutti voi, miei fratelli, santi, sorelle, figli e figlie, fedeli dei due sessi di ogni età, perché vogliate portare il nostro saluto anche a quelli che sono fuori della Chiesa e che si degnano di nutrire per noi sentimenti di amore. Grazie.